va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Marsi e Enzino, alla conduzione tecnica Simone. One. Secondo appuntamento della nuova stagione, della seconda stagione. Incredibile, direi. E siamo ancora veramente qua. Non è concepibile. La seconda stagione e la seconda puntata. Perché la prima volta è bella, ma la seconda. Siamo recidivi. Siamo recidivi. Che cosa siamo? Buon ascolto dalle F frequenze. Ecco, questa è Piazza Alta, questa è Radio F e sta per iniziare un'altra splendida trasmissione. We're still in the fight. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop and you turn and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me again. E siamo partiti in modo meraviglioso perché, caro il mio Marsi, questi erano U2 con una cover dei Beatles. Più di così è impossibile. Ecco, essendo una cover, ci accingiamo a questa stagione un po' freschina. E c'è bisogno sempre di una cover. Fuori coperta, anche dal punto di vista musicale. Dal disco Rattle and Drum del 1988. Guarda, è uno slang proprio inglese. Dai! Sei ma veramente bravo. Partendo con U2 non possiamo anche... meglio di così è impossibile, però proviamo lo stesso. Vogliamo salutare? No, andiamo via. Meglio di così assolutamente non si può no. Fare. Questa è Piazza Alta, questo è This is Radio F. Dal 1976 sulle F frequenze. Ah, e noi iniziamo, raccontiamo storie, aneddoti. Conosciamo gente, facciamo cose. Esatto, ma come possiamo farlo? Anzi, come possiamo farci ascoltare, caro il mio Marco? Ma è semplicissimo, Enzo. In FM, nel modo tradizionale, sì? C'è una bellissima frequenza, 101.2. Ma certo. Per chi è più, come dire, alla all'avanguardia. Abbiamo in streaming www.radiof.it, oppure si può scaricare la nostra app sia per Apple che Android, che è Radio F, appunto, si chiama così. Ma non solo, perché chi volesse seguirci su Facebook lo può fare. È il nostro canale praticamente preferito in questo momento, perché è più, come dire, immediato. Sì, poi c'è una risposta. Poi mi piace, è già positivo, capito? Abbiamo... metti mi piace, condividi. Io ti piaccio, te mi piace, da cosa nasce cosa. Siamo trovati bene per ora. Che cosa facciamo su questa pagina Facebook? Già da domani troverete... Vediamo gente, incontriamo cose. Già da domani troverete la puntata che sta andando in diretta. Sì, riusciamo questa sera a finirla, perché la vedo dura. E poi soprattutto abbiamo, no, soprattutto abbiamo anche altre rubriche, che sono un lunedì da Leone, dove il nostro Simone cura, vedi, Simone Giam, ciao Simone. Ciao a tutti. Ciao. Cura la parte, diciamo, filmografica della nostra cinematografica. Beh, grazie, posso andare via. E poi c'è anche un weekend. Io curo la cantina. E poi gli appuntamenti del weekend. Ma non solo, abbiamo anche un canale YouTube. Dove cosa possiamo vedere nel canale YouTube? Ma io ci guardo dei programmi di Ho cucina. Ho detto YouTube. Ah, scusa. No, infatti, programmi di cucina. No, ci saranno dei frammenti, dei frame, usare questo termine anglofono, dove magari possiamo inserire degli spezzoni, degli spaccati della trasmissione. Ma finalmente arriviamo, come fu, come non fu, arriviamo al momento più importante, cioè vi diciamo di che cosa parliamo stasera. I nostri amici su Facebook hanno visto una fotografia storica, perché è la prima foto pubblicata, la prima foto stampata nella storia dell'umanità, e da lì abbiamo dato l'indizio, no, non quella che avete visto adesso, quella no, oggi pomeriggio è stata messa, e abbiamo un ospite, perché parliamo di Foiano Fotografia e dell'associazione che a Foiano un po' rappresenta questo amore per l'arte fotografica. Fotoclub, il Fotoclub Furio del Furio. Bravo, esatto. E chi meglio del fondatore del Fotoclub può parlarci di tutto questo? Marcello Fatucchi. L'immarcescibile, l'incontrollabile. Ciao a tutti, buonasera. Allora, con Marcello ora lo teniamo ancora un attimo in caldo, perché andiamo intanto con il prossimo brano e poi finalmente iniziamo a parlare di tutto quello che è la manifestazione che già da qualche giorno a Foiano è aperta. Buon ascolto. Pace, figlia mia, perché non ti ho mai visto e non ti vedrò mai. Ti bacio perché so che ci sarai. Imperatrice d'ombra e di vendetta, ti bacio perché tu non mi avrai mai. Tua madre ti ha donato la purezza e il ventre che nasconde la bellezza. L'istinto che comanda l'indulgenza, ti bacio perché non mi vedrai mai. Sai di me e di te, carne e sangue, sai di me. Sai di te. dove siamo stati e dove andremo. Dove siamo stati e dove andremo, sai di me e di te. Dove siamo stati e dove andremo, sai di me. E per le nuove uscite italiane, questo era Paolo Benvenu con Una nuova innocenza. Benvenuti! Mi sento sempre più DJ, no? Però a parte scherzi, questo è il primo singolo estratto dal nuovo disco appunto di Benvenu, uscito il 17 ottobre scorso. Benvenu e la sua band saranno nelle nostre zone il 13 dicembre al Sonar di Colle Valdelsa e il 10 gennaio al Caremaschi di Arezzo. Sembra quasi una minaccia, ma non è un invito un saluto ascoltare buona musica. Benvenu e benvenuti! Allora, finalmente iniziamo a parlare, spero, di quello del nostro argomento. Stasera parliamo appunto di un'associazione e di una manifestazione che sono ormai radicate nel substrato culturale del nostro paese e ha assunto una risonanza e una fama a livello internazionale. Sì, Foiano Fotografia, che esatto, è giunta alla sua 16ª edizione e che è organizzata da un fotoclub di cui appunto Marcello Fatucchi, nostro ospite, è fondatore. Marcello, in che anno hai fondato questa associazione? Allora, l'associazione viene fondata nel 1977. Eri insieme a qualcun altro? Ma eravamo in diversi, ora sono rimasto. Era un giovedì, se non mi ricordo male. Sì, perché accade tutto di giovedì. Molto probabilmente sarà di giovedì. E come si chiama il fotoclub? A chi è intitolato? È intitolato a Furia del Furia, questo grande fotoclub. Attenzione, attenzione! Che è successo? Che è successo? Furio del Furia, farmacista, classe 1876. Il suo motto: un'immagine, una sensazione, un'emozione. Suoi i 6.000 negativi su vetro e pellicole, suoi i 600 positivi su vetro e carta. Dal 1910 al 1930 uno sguardo disincantato sull'economia della zona di Foiano, al di qua e al di là della macchina fotografica. Awake on my airplane, Questo era un brano, era il brano Take a Picture dei Filter, gruppo ormai disciolto. E da cui adesso si fanno chiamare i Senza Filter, ma ora questa era una battuta un po' tirata, però guarda Enzo, questo inizio di stagione veramente mi sta dando grosse soddisfazioni, perché c'è un'evoluzione anche nella timbrica, nella scelta musicale, nelle playlist. Guarda caro il mio Simone, Massimo, forse mi sta mandando dei segnali. Pensavo ti stessi mandando... perché... Però c'è da dare un merito a Simone, che tutte le sere, tutte le trasmissioni, adesso abbiamo della musica a tema, cioè Take a Picture, fare una foto, certo. Stasera parliamo... pensavo del filtro. Va bene. E infatti stasera parliamo qua, siamo in compagnia di Marcello Fatucchi e finalmente iniziamo a parlare con lui sia dell'evento Foiano Fotografia, ma permetteteci prima di fare un piccolo... un preambolo diciamo così, un preambolo sul fotoclub che organizza. Dicevamo Marcello che il fotoclub, l'associazione è stata costituita nel 77, eravate degli amanti della fotografia, perché comunque si parla quasi di 40 anni fa. Sì, mi sono venuti in mente anche nomi, i costituenti, diciamo. Bello. Eravamo io, Giorgio Tralci e Loris Bassi. Sì. No, e Enrico Bassi. E poi si aggiunse anche loro, Loris e fratello. Così, avevamo la passione della fotografia e si decise di fondare questo circolo fotografico. Voglio dire, c'è stata una... cioè 40 anni nella fotografia, un'evoluzione immagino. Ma sicuramente sì, perché insomma delle prime stampe in bianco e nero che si faceva giù a casa mia, le prime diapositive, insomma ora è tutto cambiato, quel mondo non esiste più, ecco quel mondo diciamo è diventato per fotoamatori evoluti come il nostro libro di Furia del Furia, Fotomatore Voluto, perché si ritorna un po' alle origini. Chi veramente vuol fare della fotografia bella, poi questo qui me l'ha dimostrato domenica parlando con i tanti fotografi che erano a Foiano, ancora usano la pellicola, odiano il digitale, gli serve esclusivamente come strumento di lavoro veloce, però se devono fare lavori per se stessi oppure commissionati di un certo valore estetico oppure anche culturale, questi, i più dei fotografi usano pellicola. Senti Marcello, il fatto di dedicare l'associazione a Furio del Furia, perché noi, diciamo, cercando di conoscere un po' la storia e i personaggi di Foiano, stiamo scoprendo un po' dei tesori, dei soggetti che hanno dato grande lustro al nostro paese. Quindi volevo sapere, ha un significato particolare? So che c'è anche un patrimonio da gestire. Sì, il patrimonio è grosso, sono circa 7.000 vetri negativi, diciamo. È un patrimonio, fu ritrovato e da quel momento l'amministrazione comunale si è sempre interessata, e io ugualmente, perché siamo andati di pari passo noi e l'amministrazione comunale. Tra l'altro, scusami, non l'abbiamo detto, assessore alla cultura uscente Marcello Fatucchi per 10 anni, giusto? Sì, sì. Ma una cosa che mi fa piacere, che voglio dire perché non tutti sapranno, io nel mio mandato decennale ogni anno mettevo delle risorse a disposizione per restaurare tutto l'archivio del Furia. E a oggi, insomma, prima che io lasciassi l'assessorato per scadenza giustamente dei 10 anni, l'archivio del Furia è tutto restaurato, perciò ora noi abbiamo un bene conservato, grossissimo. Però vorrei dire anche un'altra cosa, che non c'è solo l'archivio del Furia negli archivi comunali, ci sono altri due archivi, uno di Savelli, che fu acquistato circa 25 anni fa dopo il Del Furia, sai, ci fu questa mania, questa smania di trovare altri archivi. Io e Eddie Farnetani si ritrovò questo archivio Savelli e diciamo che si convinse l'allora amministrazione comunale, mi sembra c'era Cassioli, il sindaco, sì, Cassioli, a acquistare anche questo archivio. Questo archivio è lì, bello, sano, insomma, da poter restare. Poco pubblicizzato, anche perché fotografo di Sinalunga, okay, un estrione, diciamo, questo avvocato Savelli. Poi un altro archivio acquistato durante il mio mandato era l'archivio che aveva acquistato, ora scusate il doppio, la ripetizione, Ezio Raspanti, sì, da Lampi, perché pensava che ci fossero, e invece dopo siamo andati a vedere che questo archivio non è altro che un archivio fotografico molto bello, e noi l'abbiamo riacquistato da Ezio Raspanti. Ah, okay. Perciò l'amministrazione comunale, l'archivio storico, è dotato di 3 archivi stupendi. Io credo che nessun comune in Italia, oppure pochissimi, abbiano 3 archivi di patrimonio, diciamo, fotografico come c'è a Foiano. Del Furia, come ho già detto, è restaurato. Io spero che con l'andare degli anni la prossima amministrazione, se crede un pochino alla tutela del patrimonio storico-artistico, possa investire come ho investito io e negli altri due archivi. Questo ce l'auguriamo tutti. Come vedete, come sentite, l'argomento è molto interessante, e ti dirò, Enzo, che è anche molto sentito, perché diciamo, a livello cittadino, queste manifestazioni, c'è la consapevolezza di avere patrimonio, anche se forse non è ancora diciamo, possibile visionarlo, valorizzarlo nei modi che sarebbero opportuni, ma Foiano sa che c'è questo patrimonio, e noi ci auguriamo un giorno di poterlo vedere. Ma stiamo diventando troppo seri, quindi ci vuole scusa, in internet c'è, basta digitare, sì, il Furio del Furia, esatto, infatti c'è tutto. Ora certamente uno, se va su un'amministrazione, uno gli può far vedere come è restaurato un negativo, come è, certo, restaurato, certamente non è più toccabile, è chiaro, ci manca. Ora sono tutti restaurati, messi lì tipo cassaforte. Beh, mi sembra giusto, però, mi sembra giusto. Quindi sul sito dell'amministrazione comunale si possono trovare Furia del Furia e tutti .it, c'è, cioè, 7.000 rasse, 6.000. Un altro appuntamento da non mancare assolutamente. Buona visione. receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint gray, my night is colored. Say why. Fluorescent, flat, caffeine light. It's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray. My night is color. Headache, gray, dawn, wake. Day Sleeper dei REM, caro il mio Marcello, in questa fase un po' così, in questa fase sì, di REM, saudaggi. No, fase REM, fase REM, okay. Una battuta io fammela, no, scusa, fare. Scusa, tra l'altro sempre per sottolineare, guarda, per dirti per dire, apprezziamo, per sottolineare questo, il video, la scelta di questa canzone, perché in questa serata di fotografie, perché? Manu, perché il video, te, caro il mio Marzi, anzi cari i miei Marcello, perché stasera abbiamo due Marcello, il video di questa canzone è realizzato interamente con fotografie e non con pellicola cinematografica. Hai capito il nostro Simone che ci risaluta di nuovo? Ciao a tutti. mi piace dirgliele così, ma te devi ricordarci qualcosa di Facebook per no dire. Dunque il mio compleanno è passato, la comunione ho fatto, sì. Ah sì, scusate, allora voi che ascoltate in diretta o anche postumi, no, questa no, potete vedere, consultare, apprezzare tutto quello che stiamo dicendo, facendo, baciando, lettere e testamento, su Facebook, sulla pagina Piazza Alta troverete un po' siamo tutto lì, quello che stiamo facendo, le foto, sì, di questa serata, e sul canale YouTube nei prossimi giorni anche degli estratti cinematografici, no scusa, dei reminiscenze. Ma siamo sempre in compagnia di Francesco, va bene, arrivederci, di Marcello Fatucchi, per parlare di fotografia, e iniziamo a parlare realmente della manifestazione, a entrare nel vivo della, esatto, manifestazione, che è ancora in questi giorni aperta e attiva. E nei locali, Marcello, in quali locali sono ospitate le opere? Le mostre, le mostre sono ospitate nella Galleria Furio del Furia, nella Sala della Carbonaia e alla Sala Gervasi in piazzetta. Quest'anno il titolo della mostra? Around. Around, okay. Che cosa ci rappresenta? Cioè, praticamente in viaggio. Around dovrebbe dire in viaggio, e il tema di quest'anno era abbastanza simpatico e anche importante. Praticamente ci fa vedere le sfaccettature un po' di tutto il mondo, quello che succede nel mondo, dalla guerra a cose molto più belle, più piacevoli, a cavallini sardi, a un barbone, a un emarginato romano, alla crisi che c'è in Ucraina. Poi una bellissima foto, un bellissimo reportage su Berlino del mio amico spagnolo. Insomma, abbiamo girato, sì, il mondo anche quest'anno. Ci dicevi appunto fuori onda, mentre preparavamo la puntata, che la manifestazione ha assunto ormai un livello internazionale. Sì, forse. Addirittura i nostri compaesani non si rendono conto dell'importanza di questa manifestazione. E dici un po', ci dicevi di persone che vengono da da altri paesi oltre sì, a fotografi noi italiani. In 16 anni abbiamo ospitato tantissimi fotografi stranieri, e anche quest'anno abbiamo ospitato uno spagnolo che insomma, quando l'abbiamo visto siamo rimasti tutti: come, sei venuto da Madrid? Sì, dice, non potevo mancare a Foiano, proprio perché dice Foiano è un nome importante per quanto riguarda la fotografia, perché noi abbiamo sempre ospitato ospiti giovani che poi, con l'andare del tempo, sarà un caso, però Foiano ha portato sempre buona fortuna a tutti sul campo fotografico. Perciò quando l'abbiamo vista arrivare, dice, sono venuto da Madrid, ho preso l'aereo, sono venuto appositamente per vedere la manifestazione, per vedere la sua mostra. Incredibile, direi. No, gente che... no, la cosa che a cui tengo di più è far capire veramente a chi ci ascolta l'importanza che ha assunto nel proprio settore questa manifestazione. Ci parlavi anche di numeri importanti, di persone che... Ma che... certamente, se uno vuole guardare i numeri, non abbiamo grandi numeri come può avere Cortona, però di qualità sì. Esatto. La qualità sì, perché se te pensi che si sono interessati a questo 16° festival, TGCOM 24, si è interessato l'Espresso, la Repubblica, Marine Claire, il National Geographic. Beh, solo questo. Cioè, solo questo, diciamo che sono le maggiori testate a livello fotografico che abbiamo in Italia. Però anche siti stranieri si sono interessati a noi. Certo. Senti, facendo un breve passo indietro, siamo alla 16ª edizione, sì. Hai detto, no? L'idea di creare questa manifestazione è stata sempre tua? È stata mia, di Valerio. Ah, con Valerio, che stasera non è salutiamo. Qui con noi, salutiamo Valerio Paterni, il presidente, sì, del Fotoclub. E se mi permetti, Enzo, volevo dire una cosa, siccome io la mostra l'ho visitata. Ma te lo permetto. E ho avuto questa sensazione che, siccome quest'anno, come anche negli anni passati, quello che si può vedere dalle opere che sono esposte è anche un po' di messaggio, perché Marcello diceva Around è in giro per il mondo, abbiamo delle testimonianze, no, ma sono anche dei messaggi importanti, perché ora, al di là diciamo di mi sembra che il vincitore ha fatto un lavoro sulla su... Palestina. Esatto, poi io c'era anche una persona venuta, una giovane venuta dall'Ucraina, sì, dove in questo momento c'è delle situazioni anche, certo, un po' delicate, se non mi sbaglio, anche da fotografie riportate dall'Africa, sì, dal Nord Africa, dalla Libia eccetera, sì. Quindi è anche uno spaccato, un modo per confrontarsi con quello che succede in giro per il mondo, e questo gli dà anche un tono, un taglio internazionale. Sì, esatto. Sì, sì, no, ma assolutamente, anch'io ho avuto la fortuna già di visitarla e confermo le parole del qui dottor. No, sembra che collega. Tu ti sei fermato al guardaroba. Perché... Sì, perché io non sono in grado di capire di più, quindi mi sono fermato al guardaroba, dove tra l'altro c'era un poster, io pensavo già fosse fare una fotografia, invece era un poster rimasto da un'altra manifestazione precedente. Scherzi a parte, proseguiamo tra un po' a parlare ancora di Foiano Fotografia. I Continuare in questa in un crescendo rossiniano di canzoni dedicate alla fotografia dei The Cure, Picture of You del 1989. È incredibile, sembra quasi che ci sia quarto ed ultimo estratto dall'album Disintegration e dopo questo non c'è Robert stato Smith. Altro. Ma dobbiamo salutare un po' di persone. Ma assolutamente sì. Massimo, Marta, Chiara, Giada, Linda, Tamara. Cioè, proprio, cioè, no, poi sei, io c'ho proprio un Carla, segnale Roberta, orario. Francesco e Martina. Ma soprattutto chi? Soprattutto chi? Ma dillo te. È tornata. Chi? Dopo la pausa estiva, come noi abbiamo fatto la pausa estiva, anche lei. Un saluto alla nostra più grande fan, che nell'ultima puntata ci ha portato anche i dolci della prima serie. Eddie, ora questo non mi sembra. Vai, no, ma un saluto era un messaggio subliminale. Ma ancora ad Alice, Romina, Gio, Sofia, Silvia, Mara. Ma queste le elenco pagate? No, queste sono tutte persone che ci stanno ascoltando. Tra l'altro, vogliamo ricordare che la nostra pagina Facebook è quasi arrivata a 400 amici. Non dico di arrivarci stasera, dai, ragazzi, ma per giovedì prossimo a 400 non facciamoci trovare impreparati. Il succo di frutta alla pera, quindi. Ma allora, intanto questa è Radio F che è dal 1976. Quanto mi piace. Buon ascolto. E stiamo parlando con Marcello Fatucchi. Ciao, simpatico amico. Stiamo parlando di Fogliano Fotografia. Allora, un'altra domanda. Intanto ricordiamo che è iniziata l'8 novembre, ma si concluderà il 23 novembre, giusto? Sì. Volevo farti una domanda che è 2-3 giorni a cui penso. Pensa che vita piena che hai. Quanto te... No, sai, vediamo come declina questa domanda. Quanto tempo e quante persone ci vogliono per organizzare una manifestazione del genere? Ma il tempo ci vuole, perché dal momento che si parte a pensarci, diciamo da aprile cominciamo a pensarci, okay. Aprile, maggio, per novembre abbiamo degli incontri telefonici, oppure ci troviamo anche con la direttrice artistica, inventiamo il tema, dopodiché si parte, lei alla ricerca di fotografi e noi ripartiamo per quanto riguarda la promozione, la ricerca di sponsor. Infatti eccetera. Un'altra domanda che ti volevo fare era questa, avrete sicuramente delle collaborazioni, perché comunque è una manifestazione anche onerosa dal punto di vista economico. Sì, diciamo, insomma, ci vuole tempo e denaro. Ecco. Potrebbe venire meglio averci più denaro. Il tempo ce l'abbiamo perché sono in pensione, però averci denaro verrebbe anche meglio. No, i nostri, diciamo, con l'amministrazione comunale abbiamo ormai una collaborazione da 16 anni e con l'Avis una collaborazione da 5 anni. Qui posso dire che è stata determinante per la salvezza di Foiano Fotografia. E non a caso noi tutti gli anni l'Avis mette a disposizione un premio che consiste nella produzione del vincitore di quest'anno della mostra che sarà esposta un altro anno. L'Avis lo ospita pagandogli tutta la stampa di quello che è la mostra, offrendogli come premio. Perciò, oltre ad avere una mostra gratis, diciamo, è anche ospite a Foiano Fotografia. Questo è anche un messaggio, però, perché chiaramente se Marcello dice che le cose potrebbero venire anche meglio, se queste manifestazioni potrebbero venire anche meglio, bisogna un attimino sensibilizzare non solo a livello culturale da un punto di vista artistico, ma anche per cercare di rendere più solido e continuativo e per poter sviluppare sempre più questi tipi di manifestazioni che fanno, che danno lustro a che cosa? Al nostro paese. Esatto. Volevo farti anche un'altra domanda, ma la sono dimenticata. No, a parte le battute, da qui appunto al 23 novembre, quali sono gli appuntamenti più importanti, diciamo, a cui non dovremmo assolutamente mancare? Ma a parte il giovedì di stasera, che siamo. No, io vorrei, dato che ho questa occasione, no, certo, non mi ricapiterà, volevo dire anche un po' quello che abbiamo fatto quest'anno. Assolutamente, siamo qui apposta. Oltre a un corso di fotografia per diciamo primo livello, per chi ha voglia di divertirsi con la fotografia, è in corso proprio in questi giorni questo. Poi abbiamo fatto un workshop con Edoardo Agresti, che è stato fotografo dell'anno 2012, dove hanno partecipato 8 persone che sono venute un po' da tutta Italia, da Caserta, Treviso, Milano, a partecipare al workshop, a partecipare per un weekend, per venerdì, sabato e domenica questo workshop. Poi sabato l'inaugurazione e domenica abbiamo fatto la lettura portfolio, dove è uscito il vincitore del prossimo anno. Sabato abbiamo un altro incontro importante con Ti verrà in mente. Suspense. No, scusate. dobbiamo ritrovarlo. Allora, intanto, mentre Marcello lo ritrova, eccoci. Cerati? Con Davide Cerati avevo parlato. Guarda, casualmente mi ero preso l'appunto di Edoardo Agresti, con Davide Cerati, che anche lui è stato nostro ospite 8 anni fa a Foiano Fotografia, con una bellissima mostra di Still Life. Quest'anno l'abbiamo invitato perché Cerati è, diciamo, non partendo da Foiano Fotografia, perché era già molto bravo, però diciamo ora è arrivato a dei livelli mostruosi, noi in campo fotografico non è bravo, certo, mostruosi, perciò è un grosso fotografo di moda, un grosso fotografo di pubblicitario, e sabato l'avremo come ospite qui a Foiano. Ecco, quindi questi sono sicuramente degli appuntamenti. Porterà anche qualche modella, no? Perché no, porterà. Siamo un pubblico sopraffine, quindi. No, porterà una serie di immagini della sua produzione, insomma spiegherà come si lavora, insomma spiegherà tante cose. D'altronde si fece anche anno con Pierpaolo Cito, che ci parlava di guerra, come un fotografo di guerra si muove in situazioni molto sicuramente difficili. Da non perdere lei. Assolutamente. Allora, sicuramente da non perdere. Con questo appuntamento ascoltiamo ancora un altro brano e poi torniamo ancora a parlare di Foiano Fotografia. Era il 1981 e i Duran Duran cantavano Girls on Film. Grande annata. Gasped, grande. Dove film non si intende come film, ma come pellicola. Bravo. E c'era un gran video, ti ricordi? Sì, Marcello? Ricordo benissimo, tanto apprezzato, è da quel momento che ho messo gli occhiali. Purtroppo, diciamo. Ma anche per fortuna. Insomma, le vicissitudini della vita. E via, è e la via. Natura, Marcia, è la natura. Sì, vabbè, però insomma. Poteva anche essere un po' di disagio. Permettetemi di ringraziare, che questa sera ancora non l'ho fatto, il nostro filmmaker proprio Paolo, che tutti i giovedì, ciao Paolo, riprende le nostre ciaccazione e via andare le nostre puntate. Ma torniamo a noi, ricordando che tutto questo lo troverete ancora su Facebook domani sulla pagina Piazzalta. Tarda mattinata, se vi è piaciuto, ditelo anche ai vostri amici. E ci troviamo qui giovedì prossimo. Ancora non è presto per i saluti, ma te ti porti avanti, non si sa mai. Siamo con Marcello Fatucchi a parlare ancora di Foiano Fotografia, che stiamo sempre più scoprendo che è un appuntamento a questo punto immancabile. Quindi chi ci ascolta nell'etere, chi ci ascolta nel web, è gioco forza che venga a visitare la mostra di quest'anno. E tra l'altro, siccome abbiamo amici che ci ascoltano anche da Milano, dalla Svizzera, grazie alla nostra app, allo streaming, magari loro che non possono essere presenti di persona possono comunque visitare il sito, che è www.foianofotografia.it, giusto? Dove possono trovare tutte le informazioni. Tra l'altro sono molto belli anche i manifesti di ogni anno. Sì. Quelli chi vi li realizza, Marcello? Di anno in anno? La Graphic Art. Ah, Graphic Art, che sceglie. Un saluto anche agli amici della Graphic Art. Dicevo, abbiamo parlato di alcuni appuntamenti che ci sono già stati e alcuni che ci saranno. Poi la chiusura, nel finale so che c'è anche un qualcosa di musicale, di importante. Sì, da ormai da 4 anni facciamo sempre l'ultima serata, o il sabato o la domenica, una serata musicale. Quest'anno la scelta è caduta su un mio amico, Francesco Fidel, che sta a Pozzo della Chiana, fra l'altro un grande violinista, e farà lui la finale con farà un concerto per violino. Il 23 novembre? Sì, l'ultimo giorno. In Furia del Furia. No, il 22. Ah, scusami, 22. Sabato 22. In Furia del Furia. In Furia del Furia. Inoltre, l'Avis Foiano, sempre in quell'occasione, darà degli attestati di partecipazione a quei fotografi che passeggiando hanno realizzato delle foto che sono esposte durante l'orario d'apertura delle mostre sotto il loggiato della sala comunale in piazza. Ah. Quindi cioè, praticamente è stata unita alla manifestazione principale anche una piccola cosa che si chiama fotografeggio, per cui fotografia passeggio. Esatto. Chi ha voluto mandare delle foto l'hanno mandate, noi le abbiamo esposte. Si tratta di passeggio solo per Foiano o passeggio no, in generale? Foiano. Ah, i camminatori di Foiano, quelli che hanno camminato molto bello. Sì, qui siamo costretti simpatico ad usare il digitale, però, perché abbiamo bisogno dell'immediatezza, non necessariamente no perché il tempo l'hanno avuto, ce l'hanno portate il giorno che noi avevamo richiesto di averle per poterlo montare, perciò l'hanno fatte anche 2 mesi fa. A questo proposito io volevo fare una domanda a Marcello, che lui è anche la memoria storica appunto di questa manifestazione. Volevo fondatore. Capire da te come si è evoluta un po' in questi 16 anni la qualità, i temi di questa manifestazione. Questa è una bella domanda che mi fa piacere che tu me l'abbia fatta. Ma guarda, solo una persona intelligente come Marcello poteva domandare una cosa a una persona altrettanto intelligente come Marcello. Quasi mi scuso di averla fatta. Io me ne andrei, mi sento veramente di troppo. No, allora, Foiano Fotografia nasce con un'idea ben precisa, cioè quella di dare la possibilità a fotografi meno conosciuti nel giro professionistico di dargli l'opportunità di poter esporre a una manifestazione. E siamo partiti così. Invitavamo 3 o 4 fotografi importanti a livello nazionale e internazionale, e poi una decina di fotografi mandavano, sempre dato un tema, noi tutti gli anni abbiamo dato un tema, mandavano le loro proposte. Una direzione artistica sceglieva i fotografi. Okay. E così, ha capito? E così siamo andati avanti fino all'8ª edizione, non edizione. Dopodiché abbiamo un po' cambiato, però quest'anno ci siamo ritornati. Ci siamo accorti che il lanciare giovani oppure fotografi molto bravi ma meno conosciuti è una cosa importante. Quest'anno con Chiara ci siamo ritornati, cioè c'è un pacchetto di 10 fotografi affermatissimi, però ci sono anche una sezione off dove ci sono fotografi molto ma molto bravi però non conosciuti. Molto, molto bella direi questa cosa, perché io mi sento sempre molto off in tutto, quindi una manifestazione che mette in luce gli off a me fa piacere. Vedi che all'interno delle mura di Foiano è un po' l'America della Val di Chiana, diamo un'opportunità. Esatto. Tra l'altro hai fatto un nome, Chiara, che sì, dovrebbe essere, correggimi se sbaglio, la direttrice artistica. Anche il cognome, ricordiamo a questo punto? Ogioni Tiepodo. Ecco, ma tra l'altro grande cognome, che suscita... Penso. Mia carissima amica, ormai da sette anni ci segue. Io direi che possiamo mettere ancora un brano e poi ci salutiamo con Marcello e vi rimandiamo appunto anche agli appuntamenti. Sì, ma con quali dei Marcelli? Con tutti i Marcelli del mondo, tutti. Sognavo da una vita di farlo. Questi non li presenterei proprio, nemmeno, perché proprio stasera lo un grande Simone ci ha presentato i Queen con Don't Stop Me Now del 1978. Quindi a 76 Radio F, 77 Furio del Furia, 78 Don't Stop Me Now. E sempre di giovedì. Tra l'altro Don't Stop Me Now, non fermarmi ora, non fermarmi. Voglio fare delle foto, non fermarmi. Senti, le vuoi fare anche fuori dalla finestra? Tra l'altro, a conclusione, visto che facevi delle domande fuori onda, se vogliamo anche dirlo, oggi abbiamo pubblicato, sempre solo intelligenti, argute, abbiamo pubblicato una foto in tarda mattinata e Marcello Fatucchi, che è un esperto, ci spiegava che appunto è la prima foto della storia dell'umanità. Sì. Dei ritratti dei tetti francesi, dei tetti francesi, e che esposizione aveva? Ma circa 8-9 ore di esposizione. La prima foto, a me le prime cose un vino quasi diventa dannare. Ma tornando a noi, ma dopo andiamo a prendere anche un bel bicchiere di vino, così siamo tutti contenti. Ma io sono già bello caldo. Ti sento. Abbiamo finito anche stasera, è volata come sempre la nostra oretta, però abbiamo parlato con Marcello. Non so, Marcello, se ci siamo dimenticati di chiederti qualcosa, se vuoi aggiungere qualcosa. Io volevo ringraziare Radio F della possibilità e dell'opportunità che mi ha dato di parlare di Foiano Fotografia. Per noi è stato un piacere e un onore davvero. È una rassegna bella, molto bella. Io credo che in Italia sia tra le prime due o tre rassegne, perlomeno ci stanno dicendo. Bene. Io vi aspetto tutti sabato per questa serata con Cerati. Sarà una serata molto bella e poi anche la chiusura per il concerto di chiusura della manifestazione. Certo, non mancheremo di ricordarlo anche sulla nostra pagina Facebook, come già abbiamo fatto la settimana scorsa. Ringraziamo Marcello Fatucchi per essere stato con noi, per averci raccontato di Foiano Fotografia. Con i nostri amici che ci ascoltano, ci diamo appuntamento per la prossima settimana, ma durante la settimana chiaramente tutti ci saranno degli aggiornamenti, degli inviti, delle occasioni per stare ancora insieme. Esatto, allora ringraziamo ancora Marcello Fatucchi, ciao, grazie l'invito ad andare a Foiano Fotografia ed ascoltarci. Ci sentiamo la prossima settimana, ma da quando? Buon ascolto sulle F frequenze. Ah, bello. Da quando? Dal 1976. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Marsi e Enzino, alla parte tecnica Simone One. E al filmati videomaker Paolo. Aulo.